La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon sabato e ben ritrovati alla Rosa Purpura, il nostro appuntamento settimanale con il cinema qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. È una settimana che ci regala qualche chicca di interesse cinematografico importante in sala. È una settimana di festival, ne parleremo. È una settimana di grande cinema da vedere anche sul piccolo schermo, ma è stata purtroppo una settimana nefasta per il nostro cinema, per il cinema mondiale, e quindi nostro, perché è il nostro cinema del cuore, perché sono venuti a mancare Michael Cimino e Abbas Kiarostami nel giro di 24 ore, e lo sanno tutti quelli che seguono ovviamente le cose del cinema, ma anche la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, perché abbiamo messo ricordi, suggestioni, cose che faremo nel corso di questa puntata insieme a Boris Sollazzo, ma ovviamente senza dimenticare che c'è da andare al cinema, c'è da andare in sala, ci sono nuovi film che hanno trovato la via della sala proprio in questo weekend. È anche stata la settimana di Riccione, del Cine, delle giornate professionali del cinema estive, che ci hanno raccontato i listini di tutte le case di distribuzione per il prossimo autunno-inverno. E quindi insomma ci siamo fatti un'idea di che cinema vedremo, e durante l'estate ve ne renderemo conto. Oggi già cominceremo con uno speciale tutto dedicato al Cine Chuck d'Oro, cioè al premio che la rivista Chuck dà per i migliori attori della stagione. Insomma, puntata molto ricca, cominciamo subito col tuffarci nel clima agonistico di questa puntata della Rosa Purpurea con il primo film di quelli di cui vogliamo parlare fra le novità uscite in sala. È un film che oggi ho visto già due volte e mi è piaciuto entrambe le volte. È un horror psicologico molto molto sottile, passato dal Festival di Torino, arrivato adesso nelle sale. Si intitola It Follows. Non vedevo l'ora di essere adulta per avere un fidanzato. Immaginavo sempre mentre ero mano nella mano con un bel ragazzo. Jay, mi dispiace. Questa cosa... Aiuto! Ti inseguirà. Qualcuno me l'ha trasmessa. E io l'ho passata a te. Ovunque tu sia, è qualcuno che cammina dritto verso di te. Quello che puoi fare è passarla a qualcun altro. Arriverà qui prima o poi. Inquietante, eh? Abbastanza inquietante. Nei sobborghi di una città americana, classiche villette col giardinetto davanti, con l'aiuola ben rasata, una ragazza in evidente stato di shock, vaga, dicendo parole senza senso, scappando da qualcosa che lo spettatore non capisce cosa sia. La troveremo la mattina dopo spezzata letteralmente in due sulla riva del mare, e capiremo che qualcosa non funziona. Quel che non funziona è che una sorta di presenza si impadronisce delle sue vittime dopo un atto sessuale. Praticamente succede che questo male, che prende le sembianze di chi ami, e di un fantasma sostanzialmente che vedi solo tu e vedi camminare dritto dritto nella tua direzione, dovunque tu sia, lentamente ma inesorabilmente, ebbene, si trasmette attraverso un atto sessuale. E allora l'unica chance per salvarsi è quella di trasmetterlo a qualcun altro, sapendo a quel punto consapevolmente che qualcun altro ne soffrirà. È una sorta di catena di Sant'Antonio dell'horror davvero molto efficace. Efficace perché ci sono un paio di ingredienti interessanti. Il fatto che questo fantasma appunto proceda in maniera molto lenta, e quindi puoi scappare, hai la chance di scappare, ma dovresti scappare tutta la vita, perché prima o poi te lo ritroverai ancora lì. E poi perché non si fa grande sfarzo, uso eccessivo, gran ghignolesco di sangue, ma si fa molto lavoro sulla psicologia dei personaggi, sulle loro amicizie, sulle loro paure. Sono tutti adolescenti che affrontano questa cosa tutti insieme. A me It Follows, dicevo, è piaciuto davvero tanto. Chiediamo conferma a Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. A me non è solo piaciuto, secondo me è forse l'horror migliore del decennio. Devo dire, non conto tantissimo sulla mia memoria per andare più in là, ma potrei anche andare più in là. It Follows è la dimostrazione che l'horror in questo momento storico del cinema è comunque e sempre il genere più fertile. E non è così scontato, perché anche il genere che ha più schemi, più stereotipi, è il genere che più spesso si adagia su una ricetta già preconfezionata. Ma quando decide invece di stupire, quando decide di prendere un'altra strada, ne prende una davvero alternativa e davvero straordinaria. Deirdre Mitchell è solo al secondo film, e questa è forse la notizia migliore, perché se è così bello questo, figuriamoci i prossimi, e ha un'idea di cinema molto salda, a differenza di tanti altri registi horror che appunto invece si adagiano sul genere. David Robert Mitchell si tiene tutto il tempo che vuole per approfondire i legami, si tiene tutto il tempo che vuole per dare spazio agli attori, penso a Michael Monroe che è molto brava, e in più conosce bene il cinema, lo conosce benissimo, sa come muovere la macchina da presa, sa anche quello che è successo in passato. Quando tu parli di un fantasma lento hai ragione, e lì c'è tutto Romero, quel male implacabile, quel male che non sceglie, quel It che è anche un po' Stephen King, che non sai nemmeno in quale modo descrivere. Tu puoi scappare, è vero, sei più veloce di lui, forse sei più forte di lui, ma il problema è che lui è invincibile e quindi a un certo punto lo dovrai affrontare. E cosa c'è di più adolescenziale di qualcosa di indeterminato che tu devi in qualche modo sconfiggere? E poi in quella Detroit di queste periferia raffinata, di questa periferia piccolo borghese, c'è anche molto del Gus Van Sant di Paranoid Park, quel tipo di racconto della provincia americana che non è mai banale. Tutto questo rende It Follows un film straordinario, che da noi arriva colpevolmente 2 anni dopo, era stato a Cannes nel 2014, e che secondo me rappresenterà un passaggio rispetto al genere horror, un passaggio al cinema adulto, perché il punto è che It Follows non è un grande film horror, è un grande film, punto. E su questo punto siamo tutti d'accordo, e allora andate a vedere It Follows, perché davvero è un film che vale la pena essere visto ed essere ricordato. Adesso viabilità, fra poco torniamo con un'altra esperienza un po' bizzarra, bislacca, ma sicuramente interessante, che si intitola Toxic Jungle. Fra poco. La rosa purpurea. Perché avete cominciato a fare musica moderna in spagnolo? Perché è la lingua che usiamo per fare l'amore. Fratelli, dovreste andare in Perù a prendere la ayahuasca. E che cos'è, una droga? Ehi, Pierina, che sta succedendo a Nicky? Penso che voglia lasciare il gruppo. Grande storia la tua! Abbiamo raccolto tutto qui dentro. Con quale chitarra suonerai? No, suonare no. Non puoi dirmi di no, sei il mio ospite. E chi è? È il tipo che appare nel video di Shakira. Dai, amore! La clip di Toxic Jungle, il film di cui vogliamo occuparci adesso, fra le novità in sala, arriva dall'Argentina, è firmato da Gianfranco Quattrini e racconta una storia mistica e rock al tempo stesso. La storia di due fratelli che hanno un passato dove è successo un fatto grave, lo intuiamo dall'inizio, e che ha portato alla morte di uno di questi due fratelli. Ritroveremo nella linea del presente il fratello sopravvissuto in questo viaggio a ritroso verso la foresta amazzonica peruviana per andare da un guaritore che all'epoca, quando tutto era rock in quegli anni 70, quando il misto fra musica, donne, droghe faceva un po' da biglietto di visita di una generazione, ebbene tanti anni dopo qualcosa è rimasto, qualcosa se n'è andato, e il viaggio di Federico Daimon Santoro dall'Argentina a Iquitos è il viaggio per ritrovare i perché di una scomparsa, ma forse soprattutto per ritrovare se stessi. Tutto questo con del rock argentino, che è anche piuttosto interessante nel suo incedere. Boris, dicevo prima, un film sicuramente strano, particolare, ma un film con degli elementi di fascino e di racconto di una generazione che in certi momenti ti lasciano lì, anche se magari la storia sembra girare a vuoto in questi due piani temporali dello ieri, dell'estremo ieri e dell'oggi così pesante. D'accordissimo, è un film pieno di sorprese, e devo dire questa è una settimana piena di sorprese. La distribuzione italiana un po' caotica durante l'estate a volte ti regala settimane così, in pieno luglio, in cui ci sono dei piccoli gioielli. Toxic Jungle, al netto dei limiti di cui tu parlavi, in particolare nella sceneggiatura che in un paio di occasioni un po' troppo lunghe gira a vuoto, è un film interessantissimo, quanto lo è il rock argentino, che io non conoscevo affatto e che davvero è diventato parte integrante del mio iPod. E in questo senso va capito che Toxic Jungle non è un film lineare che tu puoi giudicare e puoi vivere come tutti gli altri film. C'è proprio tutto quello di cui tu parlavi prima: sesso, droga, rock and roll e misticismo, e sono delle piste che continuano a incrociarsi tra di loro durante tutto il film e che tu devi seguire più con l'istinto che con l'occhio, devi più viverle che pretendere una trama consolidata. Ne esce fuori una cosa molto interessante, la dimostrazione che il cinema argentino ha una vitalità assoluta. Tra l'altro, quando poi incontro un regista come Quattrini, che ha origini italiane, formazione nordamericana, ma è molto calato nel cinema argentino, lo dimostra il fatto che in sceneggiatura c'è Lucia Puenzo, che aveva fatto il film bellissimo d'esordio, che era XXY, che vinse la settimana della critica a Cannes. Tutti questi ingredienti portano un film eretico ed erotico che è molto molto interessante, molto molto bello, e che però pretende dallo spettatore un coinvolgimento che è diverso da tutti quelli a cui siamo abituati. E allora, questo è Toxic Jungle, la seconda proposta cinematografica di questo weekend. Adesso noi giochiamo insieme, cominciamo a giocare insieme col nostro film, che oggi non è misterioso, non lo è sin dall'inizio, perché oggi ci prendiamo un po' una parentesi estiva e giochiamo con una grande serie televisiva nella quale c'è veramente un sacco di cinema. Le serie, la serialità TV sta veramente tante volte superando addirittura, soprattutto per livello di scrittura e di recitazione, il cinema. Non è sempre così, secondo me non è neanche spesso così, ma sicuramente a volte è così. È sicuramente il caso di House of Cards, che è stata una serie veramente geniale, con un grande Kevin Spacey, anche lì un grande prestito dal grande schermo, ma che sta arrivando adesso pian pianino, è arrivata anche in un video, e oggi noi giochiamo con la quarta stagione di House of Cards, che è pronta per due nostri ascoltatori, che indovineranno tutte e due i quiz che faremo. Vi faremo due domande inerenti House of Cards, la serie. Fra gli ascoltatori che risponderanno esattamente a entrambe le domande, il più veloce, i due più veloci, riceveranno la quarta stagione di House of Cards, con tutti i nostri auguri di una grande estate. Allora, la prima domanda da segnarvi è questa: a che partito appartiene il protagonista del film Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey? Allora, dovete dirci di che partito è in questa serie, che ricorderete è l'adattamento di una serie prodotta dalla BBC, che è stata prodotta appunto da Netflix. E allora, il personaggio principale, Frank Underwood, Kevin Spacey, di che partito è? Scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, e poi state lì, ascoltate la trasmissione, perché fra poco vi facciamo una seconda domanda alla quale rispondere esattamente per provare a vincere uno dei due cofanetti con la stagione numero 4 di House of Cards. Figlio di puttana. Si mettono a rubare anche i ragazzini adesso. Non sono un ragazzino. Sono un uomo sposato. Togliti di mezzo prima che ti spappoli il cervello, uomo sposato. La mia famiglia sta morendo di fame. Lei lo sa. Questo non significa che devi rubare. Lei sembra uno dei nostri. Lavora per loro. Lo decido io che cosa sono. Non ho intenzione di uccidere ragazzini che si pisciano ancora sotto. Avanti, levati di mezzo. Abbiamo sentito una scena del meraviglioso, monumentale, straordinario, fallimentare capolavoro di Michael Cimino, I Cancelli del Cielo. Il nostro saluto al grande Michael, che se n'è andato questa settimana, si è dato appuntamento nel Cineforum Paradiso con Abbas Kiarostami, che lo ha seguito poche ore dopo. Michael Cimino, Abbas Kiarostami, l'America e l'Iran, pensate, no? I due grandi nemici della politica internazionale anni Ottanta, che oggi si stanno un po' riavvicinando, ma anche due mondi cinematografici totalmente diversi ma totalmente affascinanti. Due maestri, con la M maiuscola, che se ne sono andati la stessa settimana. Boris, sulla nostra pagina Facebook durante questa settimana abbiamo scambiato un po' qualche ricordo, non ci sembrava vero, uno dietro l'altro, perché chiaramente chi fa questo mestiere da tanti anni come noi ha avuto l'occasione, e questo è un grande privilegio del nostro mestiere, di incontrare questi giganti del cinema. E io ricordo ricordavo quello che era successo, lo voglio ricordare anche ai nostri ascoltatori, per ricordare chi era Michael Cimino, quello che è successo l'anno scorso a Locarno. Quando Michael Cimino è stato ospite, intanto ha fatto un incontro stampa che doveva essere un incontro stampa, è diventato uno show, durato quasi un'ora più del previsto, con tutta l'organizzazione svizzera che era lì un po' in trance perché lui non se ne andava e continuava a parlare con tutti dei suoi grandi sogni cinematografici. Ma soprattutto la visione, due momenti, due foto mi rimangono in mente, la visione del cacciatore in Piazza Grande sotto il diluvio con lui che non se ne va, e la visione di Cancelli del Cielo di cui abbiamo sentito la clip in un cinema sempre di Locarno, quando lui arriva tre minuti prima della proiezione con i suoi occhiali scuri, non li toglie neanche un momento, resta tutte le tre ore del film a guardarselo e alla fine si prende la standing ovation, saluta tutti e se ne va. Un gigante davvero, perché ha dimostrato in quell'ultima occasione l'amore viscerale che aveva per il cinema. Mi faceva sorridere l'incontro stampa, ricordo dell'incontro stampa, perché lui i suoi tempi se l'è presi sempre, con le tre ore del cacciatore, con le cinque e mezza dei Cancelli del Cielo. Lui ha sfidato il cinema, lo ha sfidato in tutti i suoi stilemi, in tutti i suoi schemi, e per me ha sempre vinto lui, perché alla fine i Cancelli del Cielo sono una straordinaria dimostrazione di come un genio può fallire alla grande senza problemi e rimanere comunque nella storia. Certo, ci manca tutto quello che non ci ha dato, per colpa nostra, perché non siamo stati capaci di dargli la forza che gli serviva, però anche quella visione dei Cancelli del Cielo che tu ricordavi quando gli ha urlato thank you e lui ha risposto thank you, c'era tutta la gratitudine del proprio pubblico nei confronti del regista e del regista nei confronti del proprio pubblico. Un turco va dal dottore e dice: signor dottore, è quello? Sì. Dice: dovunque io mi tocco con il dito mi fa male. Mi tocco la testa, mi fa male. Mi tocco la gamba, mi fa male. Mi tocco la pancia, mi fa male. Mi tocco la mano, mi fa male. Il dottore lo visita e dice: signore, lei ha il dito rotto, il resto del corpo sta bene. Caro signore, tu hai il pensiero che è malato. In realtà stai bene, cambia il tuo modo di pensare. E questa invece è una, non è proprio una barzelletta, è una storiella raccontata nel film Il sapore della ciliegia, uno dei film più significativi e che hanno avuto anche più esito internazionale del grande Abbas Kiarostami. E qui, Boris, quando si parla di Kiarostami si parla di un signore che ha sdoganato una cinematografia intera. Oggi vediamo tanti film iraniani, tra l'altro proprio in queste settimane ne sono usciti con un ottimo progetto, tanti della nuova o del nuovo cinema iraniano. Il cinema iraniano ha vinto festival internazionali, Cannes, Venezia, Berlino, si è affermato grazie al lavoro di Abbas Kiarostami, che l'ha portato fuori dalle mura anguste del suo paese. Anche qui ci sono tanti ricordi, c'è un libro firmato, un libro di poesie firmato durante un incontro. Lui era sempre un signore molto austero invece, però con un grande senso dell'umorismo. Aveva un grandissimo senso dell'umorismo, io lo incontrai in un'intervista pubblica che ho avuto l'onore di condurre all'Ischia Film Festival, il festival delle location, e avevi ragione, era molto austero, ma in quel caso fu molto affettuoso, perché lui diceva che dietro l'austerità nascondeva la sua voglia di vivere la vita a pieno, e quindi l'austerità gli consentiva di allontanare tutto ciò che non era interessante. A proposito di quello che dici tu, a me viene in mente Close Up, no? In cui lui prende e fa fare l'attore a Moshe Mokhmalbafa. Lui ha avuto il coraggio, a differenza di altri registi iraniani, di non imporsi un esilio, ma di rimanere in Iran facendo il suo cinema, facendo un cinema politico senza mai chiamarlo così, perché non gli interessava cambiare il mondo, nonostante il mondo fosse cambiato attorno a lui, il viaggiatore del 74, la rivoluzione iraniana del 79, e perché era convinto che l'arte potesse cambiare il mondo, indipendentemente da tutto il resto. Aveva ancora tanto, tanto da dare. Se Cimino era uno che era stato silenziato dal sistema, lui ancora riusciva, magari andando fino in Giappone, a fare il suo cinema e a farlo alla grande, e fa ancora più male pensare che non ci sia più, perché ci siamo persi chissà quanti altri film, quanti altri bellissimi film. E allora, addio a questi due grandi maestri, Michael Cimino, Baschia Rostami. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo a parlare di attualità cinematografica con The Zero Theorem di Terry Gilliam, un altro grande nome del cinema mondiale che arriva in sala in questo weekend, e soprattutto con lo speciale dedicato al Chuck d'oro della nostra Chiara Pizzimenti. Fra poco. La rosa purpurea. È arrivato anche Terry Gilliam nel nostro girone estivo qua della Rosa Purpurea. In realtà è arrivato tanto tempo fa, un'altra delle stranezze di cui faceva riferimento Boris prima, no, della nostra distribuzione, film del 2013, questo è di Terry Gilliam, The Zero Theorem, che arriva nelle sale solo adesso. Però, come si dice, meglio tardi che mai, perché un altro film veramente molto interessante di questo regista, totalmente visionario, un Cimino all'europea, potremmo dire, perché anche lui visionario, ha sperperato soldi, insomma, ha fatto alcuni progetti, non sono andati benissimo, diciamo. Su uno di questi, un Don Quixote, ci aveva fatto anche un film per raccontare il fallimento di quel progetto. E insomma, Terry Gilliam è sempre però un talento a livello visivo, lo dimostra anche in questo The Zero Theorem. Ci siamo sempre sentiti profondamente diversi, ma unici. Ma da un'analisi obiettiva siamo arrivati alla conclusione che siamo irrilevanti proprio come tutti gli altri. Zero deve corrispondere al 100%. Ma cosa ti è successo? Ci siamo sentiti vivi. Tutti si sentono vivi, ok? Non ha mai avuto la sensazione che tutti nell'universo siano parte di un gigantesco scherzo? Hai commesso davvero un grande errore. Noi non le crediamo. Ma perché lei vuole per forza provare che il tutto è per niente? Boris, 3 anni di ritardo per questo film di Gilliam, però non devono suonare come un campanello d'allarme, perché è un film anche questo che regala immagini difficilmente dimenticabili. È una delle settimane di distribuzione più belle del cinema in Italia in questo momento. E pensa alla magia, caro Franco, io in questo momento sono all'Umbria Film Festival a Montone, dove lui ha comprato un castello. Lui è sostanzialmente il direttore di questo festival, e in questo momento sono davanti al suo castello, dove probabilmente ha scritto gran parte dei suoi film e dove ha pensato anche a questo festival meraviglioso, originariamente dedicato al cinema britannico, e adesso con la Brexit invece si è allargato, a differenza di tutti gli altri, al cinema europeo e mondiale. E The Zero Theorem è il solito delitto dei registi indipendenti come Terry Gilliam, che faticano enormemente, io ricordo anche Tideland, a trovare distribuzioni, che poi sono costretti probabilmente a metterli in slot che sono penalizzanti, però non penalizziamolo noi, perché che cos'è The Zero Theorem? Un po' l'avrete capito, un po' lo dovrete scoprire, ma è sostanzialmente un uomo, un attore straordinario come Christoph Waltz, che cerca il senso della vita ed è all'interno di un mostro burocratico a capo del quale c'è Matt Damon, e in fondo so che cosa state pensando tutti, state pensando a una copia di Brasil. È sicuramente lo stesso spirito, è sicuramente lo stesso impeto, ma è un film anche profondamente diverso, un po' perché qui la burocrazia va a inserirsi nell'esistenza vera e propria, è un presente distopico, se vogliamo chiamarlo così, perché di futuro ce n'è poco, però c'è il pensare come in Brasil a un presente che possa essere diverso, in cui ci sia una multinazionale che si mangia, si mangiucchia, si gusta, si prende, si rapina pezzi di esistenza altrui, e ci sono dei burocrati che lo fanno, che sono idonei a questo e che sono stati assunti per questo. Christoph Waltz però è in qualche modo un virus in questo sistema, come Terry Gilliam è un virus benefico nel cinema, e lui ci crede veramente nell'esistenza, ci crede veramente nell'uomo, ci crede veramente nei sentimenti. In un sistema burocratico lui vuole trovare ostinatamente il senso della vita, si farà aiutare da quel altro straordinario attore che è David Thewlis, da Melanie Thierry, bellissima, straordinaria, anche nell'incarnare quello che quell'ingranaggio, quel chicco di polvere che può mandare un sistema perfetto a carte 48. The Zero Theorem poi è tutto Terry Gilliam, è l'incontinenza estetica di un genio che si prende tutte le libertà che vuole, l'incontinenza di scrittura di un maestro che sa tenere in mano diverse piste narrative, e se anche troverete dei limiti a questo film, perché ce li ha, perché produttivamente come al solito ha avuto problemi, perché Terry Gilliam non accetta legami né schemi, starete di fronte però a Terry Gilliam al massimo della sua forma, ve lo godrete alla grande, perché come lui, e in questo hai ragione tu quando dici che è un criminale europeo, davvero non c'è nessuno, e non è una banalità, ma è la sua grande unicità, e questo è importante da ricordare, perché questo Teorema Zero è anche un po' quello che lui vuole fare con il cinema ogni volta. È perfetto, allora questo The Zero Theorem, grazie Boris, buon festival, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, queste le proposte cinematografiche, avete visto che settimana, sembra più una retrospettiva perché sono film 2013-2014, però insomma grande cinema che è arrivato nelle sale in questo weekend. Noi abbiamo la seconda domanda del nostro film non misterioso di oggi, della nostra serie TV da indovinare. Per appassionati di House of Cards, abbiamo detto prima, la prima domanda, a quale partito appartiene Frank Underwood, il personaggio interpretato da Kevin Spacey. Seconda domanda, fondamentale, perché integra la prima per provare a vincere un cofanetto della quarta stagione di House of Cards. In quale grande magazzino americano, è un nome insomma che ha fatto epoca, è ricavato il set della serie? Il set della serie è stato un vecchio ma grande magazzino abbandonato di una catena però veramente strafamosa degli Stati Uniti. Diteci anche questo alla Rosa Purpurea, a @radio24.it. Con le due risposte, i primi due che i nostri ascoltatori che indovineranno saranno premiati con il cofanetto della quarta stagione di House of Cards. E allora, andiamo avanti con il nostro programma con un punto della situazione. Ve l'abbiamo detto, Riccione, si sono celebrate le giornate estive del cinema, si sono celebrati anche i Chuck d'Oro, i premi assegnati dalla rivista Chuck, diretta da Piera De Tassis, ai migliori film, soprattutto del genere commedia, dello scorso anno. È stato un premio, una stagione, un'edizione dei Chuck d'Oro che si è tinta di rosa, veramente molto al femminile, perché sono state le coppie di attrici e le attrici a dare un po' il segno della stagione cinematografica. Pensate alla Pazza Gioia di Virzì, per esempio, con la coppiata Ramazzotti e Bruni Tedeschi. Insomma, tutto questo è stato recepito dai premi, dai Chuck d'Oro, che ci facciamo raccontare dalla nostra Chiara Pizzimenti. Io non ho mai amato una donna prima di te. Non ci ho mai neanche pensato. Sei stata per tutta la vita la moglie da Sergio, la madre di Bernardo. Basta. Goditi un po' di questa libertà che c'hai. Sì, sì, vai, vai, c'è ancora spazio. Quale spazio? Lo sai, non ci vedo, eh. Non vedi, non ci senti, mi pare da sta Coanna dei Miracoli. Donne e commedia sono le voci inconfondibili di Margherita Bui e Sabrina Ferilli in Io e Lei di Maria Sole Tognazzi. Trionfano alla quinta edizione dei Cine Chuck d'Oro, i premi alla commedia ideati da Chuck. Un'edizione tutta al femminile, non per caso in una stagione dominata dalle donne nel cinema italiano. Piera De Tassis, direttrice di Chuck. Ho molte donne, non è per caso. Dove c'è una donna, io cerco di premiarla. Dove c'è un talento femminile, credo che sia peraltro un grande momento per il protagonismo femminile. Poi sono delle donne, insomma, molto pensanti, molto intelligenti, che hanno preso delle posizioni e che vivono la vita d'autore, d'attrice, ma anche la vita pubblica, la vita, l'impegno civile. Quindi, insomma, questo mi sembrava molto importante. Poi insomma è un po' un vezzo, è un po' un vizio più che un vezzo. Io non riesco a immaginare il mondo con una maggioranza maschile. Non ce la faccio proprio. Maria Sole Tognazzi si aggiudica il Cine Chuck d'Oro, miglior commedia dell'anno, al femminile. Siamo molto contenti di questo premio e di tante cose, di quello che ha comunicato il film, di quello che è accaduto nel nostro paese indipendentemente dal nostro film per le unioni civili, che tutto sommato riguardano la storia delle nostre due ragazze. Abbiamo fatto questo film che poi non è un film assolutamente di denuncia, è una commedia romantica, è un film che non aveva intenzioni politiche, però proprio perché era rivolto ad un grande pubblico come tutti quanti i film. Mi auguro e penso che abbia fatto anche un po' ragionare anche le menti più ottuse, questo mi fa tanto piacere. Sabrina Ferilli è la comedian femminile dell'anno. Una storia questa che si vede, insomma, che è stata raccontata da una donna, proprio perché c'è un garbo, anche una volontà, no, di rimanere proprio su una narrazione molto delicata, con una cifra di grande sensibilità, di rispetto. Credo che faccia la differenza questo rispetto a tante altre storie, però con la regia di uomini. Ora una donna felice di essere con altre donne. Elena Sofia Ricci, Cine Chuck d'Oro Classic. È bellissimo perché intanto sono tutte amiche, perché Maria Sole ci conosciamo da una vita, con Sabrina è stata una delle attrici più generose con me che io abbia incontrato, cioè mi sono trovata 2 o 3 volte con lei che mi citava come esempio, e per me è stata una cosa che non ci potevo credere, quindi quando la conobbi feci di tutto per incontrarla, per ringraziarla di questo, e lei mi ha più volte nominata, quindi non potrò mai dimenticare questa cosa. Quindi sono molto felice di essere con delle grandissime artiste e con delle amiche e con delle donne, perché noi abbiamo tanto da dire. Il colpo di fulmine di Chuck è Dobbiamo parlare, la commedia scritta, diretta e interpretata da Sergio Rubini. È un bel premio, mi fa molto piacere, infatti sono venuto e mi fa piacere, però devo confessare che non ho quella vanità per cui mi fa piacere, diciamo, anzi, mi mette un po' in subbuglio per quanto mi riguarda, poi venire, parlare, ma mi fa piacere per il mio film, come ad un padre può far piacere quando fanno un complimento al proprio ragazzino, diciamo. Con lui Fabrizio Bentivoglio e ancora 2 donne, Isabella Aragonese e Maria Pia Calzone, da non sottovalutare. Lei si muove nei rapporti come se fosse al supermercato, prende questo, prende quello, poi va alla cassa e si dimentica che deve pagare. No, Linda, invece devi pagare. Ma tu perché voti il PD? Tu mi devi spiegare perché voti il PD? Io non voglio essere infelice. Io non sono come voi. Non ce l'hai un cuore, sei anaffettivo. Certo, sono un banco, ma tu avevi visto un banco, ma che si emoziona. Un ruolo di papà, per chiudere, il comedian maschile è Thomas Trabacchi, che interpreta Sergio, il padre di Lorenzo, nella commedia Un bacio di Ivan Cotroneo. Il film parla di molte cose, quindi secondo me si può leggere su tanti livelli. Nello specifico io giocavo il ruolo di un padre, che è un tema a me caro. È vero che è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo girato, è uscito questo inverno, però è un ricordo vivissimo e sono contento di ricevere un premio per questo lavoro nello specifico. Mio figlio non deve essere tollerato, mio figlio deve essere accettato per quello che è. E questi erano allora i Chuck d'Oro. La nostra Chiara Pizzimenti ci ha fatto il reportage con tutte le voci, con tutte le emozioni delle premiate di questa edizione. Le interviste invece sulla prossima stagione cinematografica italiana, proprio a partire dal prossimo autunno, le centellineremo durante la prossima estate, durante il mese di agosto. Vi faremo sentire un po' il sapore dei film italiani che arriveranno in sala nell'autunno. Viabilità adesso, fra poco insieme parliamo di festival, ci colleghiamo con Siracusa per l'Ortigia Film Fest. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, la Rosa Purpurea prosegue con questa quarta parte, fra poco tutto il cinema da vedere in casa, ma prima i festival, l'estate, insomma si porta dietro i festival, lo diciamo sempre, e noi li seguiamo, quelli che meritano li seguiamo anche con grande attenzione. Sicuramente fra questi c'è l'Ortigia Film Festival, edizione 2016 a Siracusa, nello splendore della città vecchia di Siracusa, un festival che anno per anno si sta guadagnando spazi per raccontare, diciamo soprattutto come anima, il nuovo cinema italiano, le opere prime, i registi esordienti. E sarà davvero terra fertile per fare una riflessione che vi proporremo poi nelle prossime puntate proprio sullo stato dell'arte delle nostre opere prime, i nostri registi esordienti, cosa vogliono, cosa fanno, cosa producono, cosa vorrebbero fare e dove vorrebbero arrivare. E ne parleremo qui alla Rosa Purpurea, ma adesso invece concentriamoci sul programma di questo Ortigia Film Festival. È con noi Lisa Romano, direttora, direttrice, direttore, come posso dire, dell'Ortigia Film Festival, che saluto, buonasera. Salve, buonasera a tutti. Ortigia Film Festival, 2016, un paio di motivi per prendere un aereo e venire fin lì. Allora, il primo motivo è Ortigia. Noi, il centro storico di Siracusa è una meraviglia, puoi godere sia della storia architettonica che farti il bagno tranquillamente dentro la città, avendo il mare balneabile. Il secondo motivo è che facciamo un festival bellissimo. Perché un omaggio a Marcello Mastroianni? Un omaggio a Marcello Mastroianni perché è stato uno degli attori icona del nostro cinema e del nostro cinema nel periodo d'oro. E dunque ci sembrava d'obbligo un omaggio a uno degli attori più amati nel resto del mondo, al ventennio della sua morte. Per quanto concerne invece gli ospiti, abbiamo detto glamour, ma anche glamour cinematografica, insomma, con personaggi di una certa popolarità, e per esempio appunto Niccolò Manniti, che ha una tridimensionalità rispetto al cinema, da scrittore, da sceneggiatore, da, come dire, da oggetto di soggetti, potremmo dire, no? Assolutamente. La maggior parte dei suoi libri sono stati comunque tradotti in sceneggiature, sono diventati dei film. E l'altra cosa carina di Niccolò, che presenterà la sua unica prima regia di documentario ad Ortigia Film Festival, che è la storia di tre italiani in India. Ecco, dicevamo appunto, proprio Manniti sarà presidente della giuria per i lungometraggi. Ortigia è anche un festival che vuole promuovere il nuovo cinema italiano, ma proprio nuovo, cioè quello dei giovani esordienti, delle opere prime. Nella selezione, Lisa, che materiale vi siete trovati davanti? Cioè, come promette questa selezione? Ma il cinema italiano, devo dirti, promette bene. Appunto, noi apriamo come al solo con un'opera seconda di Laura Morante, che è un'attrice di fama internazionale, ma abbiamo anche una selezione con film più indipendenti, alla loro veramente opera prima, di ragazzi come Pecore in erba di Alberto Caviglia, che è un film molto molto carino, o L'Universale, che racconta la storia dell'ultimo cinema indipendente che chiusero a Firenze, che è un film di Federico Micali, che ha la sua opera prima, ma anche documentarista. Per proseguire poi con Arianna, che è un altro film opera prima di Carlo Lavagna, e Banat, segnalo che è molto carino, di Adriano Valerio, altro film assolutamente indipendente. Dunque viaggiamo un po' tra i film un po' più conosciuti e i film di autori esordienti. E allora, Lisa Romano, appuntamento a Ortigia Film Festival a Siracusa dal 9 al 16 luglio. Noi con la Rosa Purpurea ci saremo per raccontarvi cosa c'è di nuovo, cosa si sta muovendo di nuovo nel cinema italiano, ma ci sarà anche tantissimo di più, come diceva giustamente Lisa, soprattutto e innanzitutto la bellezza di questa splendida città. Ci vediamo a Siracusa, Lisa, e buon festival. Grazie, arrivederci a tutti. E allora, dopo aver parlato di festival, aver parlato di questa calda estate cinematografica con l'Ortigia Film Festival, passiamo a risolvere il quiz della scorsa settimana. Il nostro game, in realtà, l'abbiamo risolto alla fine della puntata. Vi avevamo detto che si trattava di Subway di Luc Besson. La sorpresa è che nessuno ha indovinato. Evidentemente il film è un po' indietro negli anni e qualcuno è rimasto disorientato. Beh, lo metteremo in palio in qualche prossima occasione. Invece, ci facciamo dire però di Subway tutto quello che c'è da sapere a livello di questa uscita on video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, si tratta di una folle corsa sottoterra in metropolitana, per l'appunto, di un ladro interpretato da un ossigenatissimo Christopher Lambert, che sottrae documenti scottanti, si innamora della derubata e fa ovviamente bene, visto che la derubata è Isabelle Ajani, e incontra una galleria di personaggi stranissimi. Si tratta di una favola underground, forse, almeno a mio avviso, quello che rimane è il miglior film di Luc Besson, un regista che oggi anche da produttore è capace di lottare contro lo spettacolo hollywoodiano facendo produzione in terra europea, ed è un film dove mixa il linguaggio pubblicitario, romanticismo strappalacrime, e gira un film che è veramente tutto di furbesca apparenza, se vogliamo. Infatti al tempo il cinema di Besson veniva chiamato cinema du look, ma è comunque pieno di emozione. Il Blu-ray Pulp distribuito da Cecchi Gori è veramente molto scarno, ma comunque questo film è da avere anche solo per ricordarsi che certe sperimentazioni in ambito pop non sono certo nuove. E allora, questo è Subway, il nostro game della scorsa settimana. Dalla TV, dalle TV della prossima invece settimana, abbiamo pescato un paio di film davvero molto molto interessanti. Cominciamo con La 25esima ora. Sì, vaffanculo anche tu. Affanculo io, vacci tu. Tu e tutta questa merda di città e di chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi. Sì, uno dei primi film a confrontarsi con il paesaggio newyorkese del dopo 11 settembre 2001 e affrontare le ferite dell'America nella figura di quello che è un uomo condannato, interpretato da Edward Norton, e delle 24 ore che precedono la sua incarcerazione. Si sentono tutto il lutto e il senso della tragedia in questo film molto bello di Spike Lee, ma Spike Lee ovviamente non rinuncia alla critica, perché per lui è veramente triste immergersi in un'umanità che pare avere perso tutto il senso di colpa, sia individuale che collettivo. A 15 anni dalla tragedia rimane una delle testimonianze più forti a livello proprio di capacità di capire le emozioni di un paese che l'America abbia dato. Ricordiamo l'appuntamento televisivo con La 25esima ora di Spike Lee su Paramount Channel alle 21.10 di lunedì 11 luglio. Martedì 12 invece su Rai Movie alle 1.05 di notte sarà il momento di Nashville di Robert Altman. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. Per cinque giorni la città di Nashville diventa il centro attorno al quale gravita una serie di storie che, come sempre nel cinema di Robert Altman, sono intrecciate, sovrapposte, confuse tra di loro. Sullo sfondo c'è un raduno di musicisti pop e country organizzato per sostenere la campagna elettorale di un candidato veramente ambiguo e populista. Siamo assolutamente in una materia attualissima. È una delle opere fondamentali veramente per comprendere l'America e il cinema post 1968, e nessuno veramente come Altman ha saputo tradurre in forma cinematografica, tramite il montaggio, il sonoro, la messa in scena, quel senso totale di spaesamento e di perdita di centro che pervadeva la società di quegli anni. Veramente un capolavoro. Un capolavoro allora da rivedere su Rai Movie all'1:05 della notte di martedì 12 luglio. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati così alla fine della nostra rosa purpurea. Come ci dicono le note della nostra sigla, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Saremo insieme sempre, tutto il mese di agosto, con puntate nuove, fresche, con tutti i film che arriveranno nelle sale nel prossimo autunno. Ma insomma, c'è ancora tempo per parlarne. Noi ci risentiamo qui su Radio 24 alle 18 di sabato con tutto il cinema che c'è alla rosa purpurea.